Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Veltroni ha dichiarato che governo e maggioranza sono al 70% di gradimento perché la TV è schierata come mai si è visto. Infatti, ecco la TV schierata. Lunedì prima serata, L'infedele di Gad Lerner. Martedì prima serata, Ballarò di Floris. Mercoledì prima serata, Exit di Ilaria D'Amico. Giovedì prima serata, Anno Zero di Santoro. Venerdì prima serata, Le invasioni barbariche di Daria Bignardi. Domenica pomeriggio, In mezz'ora di Lucia Annunziata. Domenica prima serata, Crozza Italia. Sabato e domenica in prima serata, Che tempo che fa di Fabio Fazio. Tutte le sere in prima serata, 8:30 di Lilli Gruber. Tutte le sere in prima serata, Blob. Quasi tutte le sere seconda serata, Porta a porta di Bruno Vespa, che essendo obiettivo viene considerato di destra. Quasi tutte le sere seconda serata, Matrix di Enrico Mentana, idem come sopra. I telegiornali, TG1, TG2, TG5, Sky TG24, TG7, sono obiettivamente neutri. Chi governa ha sempre avuto più spazio, fisiologico, non fazioso. Rai News 24 e TG3 e regionali sono chiaramente schierati a sinistra. TG4, Studio Aperto, sono certamente schierati a destra. Questo è il panorama dell'informazione televisiva in Italia. Devo presumere che Veltroni, se non è ospite ad uno dei programmi menzionati, e lo è spesso, dopo aver visto L'eredità o Chi vuole essere milionario, spenga il video e vada a nanna. Cordialmente, Lolita. Sono un'insegnante di liceo e una madre di due bambine di 5 e 7 anni. Per molte ragioni la scuola è la mia vita, lavorarci è una fatica, un piacere e un onore. Penso che questa riforma abbia un solo scopo principale: ridurre la spesa pubblica partendo da una categoria poco amata dai giornali e conseguentemente dall'opinione pubblica, e dunque incapace di rompere il diffuso consenso politico di cui il governo gode. Non voglio il maestro unico per mia figlia, perché sperimento ogni giorno che la collegialità è un valore che tutela il bambino. Personalità di insegnanti talvolta fragili, talvolta troppo ingombranti, hanno rovinato la vita di alcuni miei coetanei. Il team rende più competente, efficace e sereno il nostro lavoro, permette il confronto, lascia allo studente più spazio di crescita. Vorreste un solo pilota sull'aereo? Un solo chirurgo in sala operatoria? Non sottovalutate la forza e il peso di ciò che noi adulti facciamo o diciamo su un carattere in crescita. Io stessa so che se volessi, e non voglio, o se agissi superficialmente, e tendo a non farlo, potrei ridurre ulteriormente l'autostima dei miei alunni più fragili, con poche semplici frasi, e si tratta di adolescenti. Quanto alle superiori, la riduzione da 40 a 32 ore del liceo artistico ne snatura l'identità, eliminando quelle attività pratiche in laboratorio che sono l'essenza stessa di quel tipo di scuola. E poi, vi siete davvero bevuti la storia dell'educazione civica e del voto in condotta? I miei colleghi di storia insegnano ancora una materia che si chiama storia ed educazione civica. La Costituzione è al centro del loro lavoro, come pure del mio, sin dal biennio. Il diritto e i diritti sono contenuti trasversali di cui molti ci occupiamo, per esempio proprio insegnando la letteratura latina. Il voto in condotta c'è sempre stato. Con gli alunni che ho, se facesse media, la alzerebbe. Nelle scuole in cui gli studenti sono più eversivi, i voti, tutti, contano meno di zero. Elena. Ho vissuto in Francia ai tempi del liceo e nella mia fantastica scuola pubblica, il primo anno sono stata inserita in una classe speciale. C'erano ragazzini italiani, inglesi, portoghesi, americani, danesi e spagnoli. Dopo un anno speciale, dopo aver imparato il francese, sono stata inserita in una classe regolare. Un'esperienza fantastica, da augurare davvero a tutti. Ma c'è un'enorme differenza tra il ritrovarsi con ragazzi stranieri i cui genitori sono stati trasferiti a Parigi con un buon lavoro per fare carriera e un'esperienza interessante per tutta la famiglia, e il ritrovarsi in una classe di ragazzini i cui genitori sono arrivati in Italia senza avere troppe alternative e che magari sarebbero rimasti nelle loro case, nelle loro scuole, se solo avessero avuto un lavoro. Insomma, un conto è emigrare per forza, un conto è essere selezionati per un'avventura fantastica. Nella mia scuola in Francia, per intenderci, non c'erano ragazzini nordafricani, figli di quegli emigrati che hanno affrontato un lungo viaggio senza certezze. Quindi dico sì all'inserimento graduale di quei bambini che non parlano la lingua, ma deve essere un'opportunità, deve rappresentare qualcosa in più, deve arricchire tutti i protagonisti in un modo o nell'altro, insegnanti compresi. Sia ore in più per chi deve imparare l'italiano, sia un invito all'inserimento. Insomma, deve essere qualcosa a favore di questi ragazzi stranieri e non solo a favore degli italiani doc. Che poi, se questi stranieri non imparassero proprio tutto della cultura e del modo di vita italiano, sarebbe solo un bene, no? Marta. Lo Stato deve pensare a tutti e fare leggi che valgano per tutti. Saranno le singole unità scolastiche ad adeguare la loro situazione. Da noi, per integrare gli studenti extracomunitari con gli italiani, si fanno dei gemellaggi. Uno studente italiano segue uno studente straniero non solo durante la scuola, ma soprattutto nei compiti pomeridiani a casa e nel tempo libero, creando delle situazioni tipo gare di cruciverba, rebus, ricerche sulla storia locale con successive rappresentazioni teatrali, eccetera, eccetera. La legge vale per tutti. La nostra volontà e l'impegno personale fanno il resto. Nicoletta. L'università italiana è un mondo di realtà estremamente diversificate. Non solo per le specializzazioni, ma anche per l'organizzazione e la gestione dell'impresa università. Non possiamo continuare a puntare il faro dell'attenzione nel mucchio senza cominciare a capire di chi singolarmente stiamo parlando. Non possiamo continuare a dire che l'università italiana è marcia e malata e non guardare alla crescita che anno dopo anno alcune università faticosamente costruiscono, pur avendo basi di partenza economiche e strutturali inferiori rispetto alla maggioranza delle altre università nel mondo. Colpire tutti indiscriminatamente significa fare una mera azione di bilancio, senza fare alcuna analisi delle conseguenze che questa azione porterà. Non ritengo che la nostra università vada in toto salvata, ma penso che un'azione seria avrebbe senz'altro richiesto più tempo e molto più coraggio. Trovare le falle e tapparle richiede molta più fatica che non decidere di ridurre le risorse per tutti. Dal punto di vista economico il risultato non cambia, ma le conseguenze finali sul mondo universitario invece sì. Coloro che lavoravano bene vedranno necessariamente ridotta la propria produttività. Si riducono notevolmente le prospettive per i giovani che vogliono rimanere nel mondo accademico e questo farà scappare i migliori. La competizione a livello internazionale ci vedrà ancora più penalizzati. Gisella. Sono uno studente di scienze politiche di Milano e venerdì scorso ero in università, dove alle 8:30 ho frequentato regolare lezione. Intorno alle 12 l'università è stata invasa da un furgoncino che è entrato senza permessi nel cortile, ha dato inizio all'occupazione. In nome della libertà hanno subito provveduto ad interrompere le lezioni, ancora in atto. Ne è seguita un'assemblea di istituto. Non è stato fornito alcun dato concreto sul DDL Gelmini. Non è stata fatta nessun tipo di proposta per sistemare le università. In compenso, uno dei temi più ricorrenti era la preoccupazione di come organizzare la notte bianca in università, su chi doveva fare i panini, chi spillare la birra e chi mettere la musica. La discussione si è spinta fino a critiche sull'economia di mercato, in senso lato, definito un sistema criminale causa dei mali del mondo. C'è anche da aggiungere che moltissimi partecipanti erano esterni e non studenti o professori di scienze politiche. In conclusione, un gran calderone fatto per iniziare il weekend con un giorno di anticipo. Fabrizio. Caro Fabrizio, ti ringrazio per la lettera, soprattutto perché mi ha fatto tornare indietro di 40 anni. Era l'autunno del 68 quando anch'io, giovane studente di scienze politiche all'Università di Milano, sono stato involontario protagonista di una delle prime esplosioni della contestazione studentesca. Quel giorno di novembre, pochi giorni dopo l'inizio regolare delle lezioni, venne infatti convocata improvvisamente un'assemblea per discutere un articolo del Corriere della Sera. Era un articolo in cui si annunciava l'avvio dei lavori di una commissione ministeriale per la riforma dei piani di studio proprio di scienze politiche, con la creazione, come poi faticosamente è avvenuto, di nuovi indirizzi di specializzazione più rispondenti all'evoluzione della politica e della società. Ebbene, in quell'assemblea ebbi l'avventura di chiedere la parola per sostenere che in fondo la riforma della facoltà sembrava andare proprio nella direzione più utile a noi e per il nostro futuro. Non ebbi fortuna, fui sotterrato dai fischi, dato che la maggioranza puntava solo ad avere una motivazione per occupare la facoltà. soprattutto per non restare indietro rispetto al movimento di protesta che si stava allargando in molte università. Mi colpì in quell'occasione l'assoluta mancanza di disponibilità al confronto, al mettere in discussione le proprie tesi, al giudicare l'organizzazione dell'università come qualcosa di utile innanzitutto per noi. Per me fu quasi una fortuna, dedicai meno tempo agli studi e più tempo a frequentare le redazioni dei giornali, ma questo non giustifica certo il fatto che l'università diventi un luogo di scontro e non di sviluppo della cultura e della professionalità. Egregio direttore, in relazione ad Alitalia CAI stupisce il silenzio in cui è precipitata questa questione, che sino a poco fa era su tutti i giornali e televisioni. Sembra che l'operatività della società sia passata dal 1 novembre al 1 dicembre e che qualche socio CAI abbia fatto retromarcia. Ma soprattutto sembra che dei 250 milioni di euro previsti in entrata dai fondi dormienti se ne siano materializzati solo 1,5, in quanto gli altri si sono svegliati prima di essere acchiappati. Mi piacerebbe che lei monitorasse questo argomento giornalmente con le rubriche economiche della vostra radio, perché sento una grande puzza di bruciato e non vorrei che tra qualche settimana si facesse un nuovo polverone e che dietro alla notizia che sarebbero previsti di nuovo gli aiuti di Stato ci ritrovassimo sul groppone di nuovo tutta l'Alitalia, la quale continua a volare. Ma non si sa con quali soldi, visto che a fine settembre non ce n'erano più. Agostino. Di fronte alla crisi economica, negli Stati Uniti stanno studiando la possibilità di concedere degli sgravi fiscali. Perché da noi non se ne parla? Perché il governo non posticipa l'acconto IRPEF di 3-4 mesi o ne riduce l'aliquota? E perché non si parla più di Alitalia? Federica. Mi chiedo perché Veltroni, e la sinistra in genere, quando vince la parte a loro avversa, vuol dire che è tutta una iattura e una sciagura nazifascista nazionale e mondiale. Ma perché questi signori non riescono a capire che le persone normali possono anche non pensarla come loro, senza che il mondo si sfasci? Perché questi signori hanno sempre quell'arietta un po' spocchiosa ed altezzosa, come se fossero depositari del verbo assoluto? Mi sembrava che Dario Franceschini, vice segretario del PD, all'indomani della sconfitta elettorale, avesse anche detto che il centro-sinistra avrebbe dovuto perdere questo brutto vizio, che peraltro li danneggia parecchio. Evidentemente, la sua è stata una voce isolata, Francesca. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.